fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Di nuovo in diretta, siete sempre live con Resto Radio Convento. Io sono Master Nico, ovviamente dal ristorante Convento di Ronato del Garda. Come ci piace dire, il nostro locale è un variopinto mondo di feste, momenti da ricordare e motivi anche per fare festa e per ricordare qualcosa di importante. E ci piace dire che è veramente un mondo aperto a tutti, e ci fa ancora più piacere notare come ci siano vari modi per fare festa. Il modo che hanno scelto i ragazzi che mi sono vicini ora è davvero interessante, davvero particolare, e vale la pena di essere raccontato, per cui è un piacere averli qui ai nostri microfoni. Allora ragazzi, partiamo con le presentazioni di rito, poi capiamo anche il motivo della vostra serata e della vostra presenza qui da noi. Chi vuole cominciare? Ciao, mi chiamo Claudia e faccio parte del gruppo docenti del Perlasca di Idro. Perfetto, quindi bresciani, bresciani. Bresciani, Claudia, poi abbiamo... Buonasera, sono Fabio. Fabio, anzi aspetta, facciamo così, ripartiamo dall'inizio e direi anche di specificare materia o ambito, vai, vai. Orgogliosamente scienze motorie. Scienze motorie, Claudia, ok, poi... Storia dell'arte. Wow, poi... Bello in incognito. Ah, in incognito, quindi non si presenta, non si presenta, non vuole dare le sue generalità. Buonasera, io sono Giovanni, sono professore di chimica. Chimica, aia, questo è tosto, aia, questo è tosto. È una cervellone. Sera, una sera è un cervellone, cui... un cervellone. No, no, no, è una sera in cui l'alchimia si sente, quasi tangibile, sì. A pelle. Hai a pelle. Creato delle formule stasera. Ma diciamo che la percepisco. La percepisci, ormai. La percepisci, e poi per concludere? Io invece sono Alberto, docente di economia e diritto economia. Diritto economia, vedi che c'è un buon purpurri di tante tante materie. So che non siete gli unici, vogliamo anche salutare quelli che sono rimasti fuori o che magari sono già andati a casa. Chi c'era qui questa sera? No. C'erano molti altri colleghi, ma stanno tutti fuori. Ah, ok, beh, volete salutarli, volete presentare anche loro? De todos. Salutiamo tutti quanti. Ah, ok, beh, saluto comune. Allora, dicevamo, la scuola immagino sia la stessa? Sì. Ok, sì. Parliamo di medie, superiori, giustamente. Per l'ASCA, e come va? Come sta andando l'anno? Orgogliosamente bene. Oh, bene, sì, bene. Sì, credo che sia soddisfacente. Quest'anno è proprio positivo, anzi i ragazzi si sono impegnati tantissimo, il corpo docente altrettanto, quindi non possiamo che essere contenti. Ma in totale quanti siete? Questa sera? No, beh, in generale, come corpo docente. 60. Bravo, vedi che è precisa, perché giustamente in incognito, ma... ci controlla tutto. Eh beh, che cavolo, perfetta. Secondo perfetta me sono più loro. Importanti gli assistenti ATA che i docenti della scuola. Sì, sì, sei d'accordo. Infatti sono proprio convinto. 720 in un altro plesso che è sempre il nostro. Vabbè, è preparatissima, può fare un quiz, ciao. Può andare a partecipare a quello cos'era con l'eredità. Sì, beh, a parte l'eredità, no, era... Chi vuole essere milionario? No, scommettiamo che il rimpianto. Fabrizio Fritti. Sarebbe doveroso fare un in bocca al lupo a tutti gli studenti che si apprestano. Ci siamo. Io, scusate, vorrei approfittare per far presente una cosa. Purtroppo questa mattina è accaduto un incidente qui a Sabbio a un nostro collega, purtroppo, Rocco. Grandissimo Rocco, il quale purtroppo è stato sottoposto ad un intervento d'urgenza dove purtroppo perderà una gamba, e non possiamo dimenticarlo questa sera. Purtroppo certo, non ci potrà essere. Noi siamo come un corpo docenti che si muove all'unisono, siamo quasi più che colleghi, siamo amici, quindi io credo che qualsiasi ambiente di lavoro dovrebbe puntare a questo. Beh, anche siamo una famiglia. Anche perché permettetemi di dire, ed era quella la cosa che avrei fatto notare tra poco, è veramente inusuale, ecco, che ci sia questo ritrovo un sabato sera tra docenti, anche perché anche in questo caso permettetemi di dire passate già tantissimo tempo insieme, quindi normalmente si cerca di evitarlo il più possibile nel tempo libero, ma rifugiarsi nelle proprie conoscenze e nelle proprie amicizie. Il fatto che voi continuate, ecco, a vedervi anche al di fuori è veramente qualcosa di speciale e molto molto bello, perché immagino chiunque avrebbe avuto 200 programmi diversi per questa serata, ma aver scelto di essere qui direi che dà molta importanza e molto valore al gruppo che avete formato, quindi complimenti. E l'altra cosa che volevo far notare è che non è la vostra prima volta, perché già vi abbiamo visti qui, quindi sì, è un, come dire, un appuntamento che ormai si ripete, non so se annuale, non so se più spesso, ma diventerà una tradizione, spero. ci sta l'anno scorso, ci sta sempre più o meno in questo periodo, no, verso la fine delle scuole. Ok. L'ultima cosa che magari vorrei dire, Rocco, dai, che ce la fai. Forza Rocco, forza. Certo, Rocco, assolutamente. Rocco potrà anche risentire questo bel messaggio, questa bella carica di sostegno da parte vostra. A questo punto, visto che giustamente il nostro professore l'ha tirato in ballo, volete mandare anche un messaggio agli studenti per i futuri esami che arriveranno? In bocca al lupo, ragazzi, ce la facciamo anche quest'anno. Dai, forza. Dai. Forza ragazzi, forza. In culo alla balena sperando che non caghi. Giù, beh, i classici dialetti, i classici detti di un tempo che si tramandano sempre. Dicevo, come funziona adesso con le commissioni? Interna, esterna, mista, com'è? Mista. La commissione è sempre quella, ci saranno tre membri interni di solito e poi ci sono due membri esterni, di cui il presidente. Il problema è che cambierà la tipologia di esame. Ho letto che è cambiato qualcosa. Si toglierà la terza prova, ci saranno due prove scritte, l'orale direttamente, che l'orale sarà quasi, di cui anche il secondo scritto, quasi una follia, almeno per adesso speriamo che il ministero si ridimensioni. Cioè, follia in che senso? Non è la prova specifica, il secondo? Cioè la... È difficile. Cioè ah, ok, in senso di complesso. Quindi non è più la prova di indirizzo, chiamiamola così, no? No, l'orale sarà strutturato attraverso una preparazione di buste dove verranno sorteggiati degli argomenti. Beh, a questo punto sono anche aumentati i punteggi, a questo è per forza di cose, perché togliendo una prova va da sé che si ridistribuisce sulle altre tre. Sì. Naturalmente avrà anche un certo peso il percorso di alternanza scuola-lavoro. Ah, beh, questo però è positivo, dai, questo almeno è positivo per l'inserimento. Soprattutto per la difficoltà che c'è in questo periodo. Valutate la scelta, il progetto, positivamente o negativamente? Ma lo scopriremo vivendo. Ci sta, hai ragione. Sul fatto che sulla carta le cose siano una cosa, poi praticamente siano un'altra. È una cosa nuova anche per noi, quindi sarà un'incognita. Cercheremo di... Dovremmo impegnarci anche noi. Ci sta, molto anche sul realizzare questa tipologia di esame. Comunque, da Videla dico un'altra volta, siamo ben al microfono, così ti sentiamo, perché sennò va nel vento così. Abbiamo dei docenti, credo. Sì? Ma bello, belle anche le tue parole. Trovare dei docenti che credono nei ragazzi. Sì. Beh, mi sembra che credano anche nel loro lavoro, a quanto sembra, cioè si sente. Non è così scontato, permettimi, non è così scontato. Sì, per quello dicevo, non è così scontato e si sente proprio, si percepisce una profondità e un grande senso di responsabilità e di dovere nei confronti di quello che fanno. Bene, volete ancora aggiungere qualcosa? È una serata fantastica. Bene, anche perché meteorologicamente diciamo che sì, ci siamo difesi bene per il primo weekend forse sostenibile da parecchie settimane a questa parte. Allora, grazie mille ragazzi e a questo punto in bocca al lupo per i nuovi esami che verranno anche per voi e appuntamento al prossimo anno, speriamo. Posso fare un saluto? Certo, vai. Saluto, anche se non mi ascoltano, però potranno magari ascoltarmi, volevo salutare i miei ex colleghi di Radio Delta 1. Grande, bravo. Vai, Videla. Solo dire che ci vorrebbe più amore. Sì, sono d'accordo. E cambierebbe forse il mondo, invece di tante proposte, tante leggi e tante iniziative che poi rimangono. Un attimo più di amore, nel senso che non possiamo vivere adesso come adesso, purtroppo. Non si può vivere solo di pane, purtroppo. Bisogna proprio. Ma se parlava più dell'individualità e del. Esatto, dell'individualità e di rimanere un po'. Quello che fai lo fai per dare. Esatto. Sono pienamente d'accordo, bellissime parole. E direi che con questo bel messaggio possiamo ringraziare e salutare tutti, ma soprattutto salutare loro. Ragazzi, buona serata e alla prossima. Ciao, grazie di aver avuto questa pazienza. No, è bellissimo. Ciao, un beso.